Focus Economia. Con Deborah Rosciani. Buonasera a tutti, benvenuti da Deborah Rosciani a Focus Economia, il punto della giornata economico-finanziaria. La giornata di borsa è negativa, era partita meglio, poi Milano è arrivata a perdere più di un punto percentuale, adesso è risalita di nuovo, il calo ammonta allo 0,52%, ma contrariamente a come ha fatto Tokyo, che invece è partita con il botto in questa settimana con un rialzo ben superiore ai 2 punti percentuali, anzi sì, al 2,19%, e dopo che Wall Street venerdì scorso ha chiuso una nuova settimana positiva con lo Standard & Poor's che ha ritoccato l'ennesimo record, e beh, l'Europa non risponde. Qua ci sono cali generalizzati e poi cercheremo di capire appunto nel corso della trasmissione per quale motivo. Di quali altri temi parleremo? Come sapete, per ragioni varie, lo Stato, il Governo è a caccia di risorse e a quanto pare sarebbe pronta un'altra iniziativa di scudo fiscale, chiamiamolo poi come vogliamo, nonostante le promesse degli anni passati, anzi la promessa che era un po' legata all'ultimo, si era detto non ne faremo più, a quanto pare invece la tentazione di riportare nel nostro paese capitali evasi evidentemente è forte, si cercano tutte le iniziative possibili per poter portare a termine questa operazione, si cercherà di intercettare, secondo le stime delle Sole 24 Ore, circa 200 miliardi di euro, ma addirittura qualcuno pensa che questa cifra sia sottostimata. Allora cercheremo di capire come farà il governo appunto a riportare questi soldi nel nostro paese. Un'altra cosa interessante della quale parleremo nel corso della trasmissione è una notizia che abbiamo voluto approfondire dopo che ci ha scritto un imprenditore che opera negli Stati Uniti e che, attratto dall'iniziativa presentata dal Premier Letta negli Stati Uniti un mese fa, Destinazione Italia, quel grande programma che ha l'obiettivo di portare investitori internazionali in Italia, appunto ha chiesto informazioni, perché a questo imprenditore che opera a New York nel settore immobiliare, un cliente molto importante che vuole mettere 50 milioni di euro nella struttura alberghiera di Roma, ha chiesto informazioni per capire appunto se tutto fosse già pronto, se poteva già aderire al progetto appunto contemplato dal Ministero dello Sviluppo Economico. Insomma, è da un mese che cerca informazioni, nessuno gliele sa dare e potrebbe vedersi sfumare questo affare, ma soprattutto è un peccato per il nostro paese. Allora noi abbiamo interpellato il Ministero dello Sviluppo Economico e avremo il capo della task force della iniziativa appunto del programma Destinazione Italia, che ci farà il punto della situazione e ci spiegherà evidentemente perché gli imprenditori che sono già pronti a mettere qualche soldo nel nostro paese non vengono aiutati, e siccome Destinazione Italia, da quello che abbiamo capito, è ancora in una fase di audizione di tutti i soggetti interpellati, appunto non è ancora pronto a partire, e però insomma, siccome non è che 50 milioni di euro ci facciano proprio schifo, vediamo di capire se si possono aiutare queste persone a fare comunque questo investimento. E quindi insomma, i temi di cui parlare anche questa sera ne abbiamo molti, ce n'è anche un altro molto interessante che sta cominciando a far perdere il sonno a molte famiglie italiane, perché nel nostro paese a questo momento, dopo la decisione di mettere in amministrazione straordinaria Banca Marche alla fine della settimana scorsa, sono salite a 12 le banche italiane sotto la tutela della vigilanza della Banca d'Italia. E allora che cosa sta succedendo? Devono preoccuparsi le persone che hanno dei conti correnti, che hanno dei piccoli investimenti in questi istituti di credito? Qual è la situazione? E quindi anche questo sarà un tema al centro del nostro programma questa sera. Se volete, come sempre, avete l'opportunità di mandarci i vostri commenti, possibilmente che non siano insulti alla sottoscritta, con il numero che è il 349-238-6666. Adesso partiamo con le altre notizie in breve. L'Eurozona è uscita dalla fase pericolosa, ma per progredire deve ristrutturare il proprio settore finanziario, alimentare la crescita con nuovi modelli di business ed evitare il protezionismo. Lo ha detto il consigliere esecutivo della Banca Centrale Europea, Curé, in un discorso a Pechino. Ha sottolineato che l'Europa deve evitare tentazioni protezionistiche e desideri di nazionalizzazioni, ma invece deve rimanere aperta al mondo, continuare a portare avanti accordi bilaterali e regionali di libero scambio. Il risparmio in Europa è stato in parte rinazionalizzato a causa della frammentazione finanziaria. Questa tendenza, se lasciata senza controlli, potrebbe rivelarsi fatale per il mercato unico. È anche questo un monito che ha lanciato lo stesso consigliere esecutivo della BCE in questo discorso a Pechino, e il funzionario ha sottolineato che solo con il completamento dell'unione bancaria si può frenare questa spirale. L'attuale frammentazione, rileva, sta provocando grandi sofferenze fra i paesi europei su costi, raccolta e tassi a famiglie ed imprese. Non abbiamo dato le consuete quotazioni delle materie prime. L'oro questa mattina sui mercati asiatici navigava a $1,358 l'oncia. Il petrolio è leggermente risalito a New York, anche se rimane sotto i $100 al barile, siamo a 98. Non sarà facile tornare ai livelli di crescita pre-crisi, lo ha detto il presidente dell'Eurogruppo, Dijsselbloem, durante un intervento a Madrid, secondo quanto ha scritto oggi l'agenzia Bloomberg. Il presidente dell'Eurogruppo ha anche sottolineato che sono fondamentali ulteriori riforme del mercato del lavoro per creare occupazione. Le notizie dall'Italia. Dopo un lungo periodo di difficoltà cominceremo ad intravedere una ripresa. Prevediamo una crescita del PIL dell'1% per il 2014. Lo ha detto il ministro dello sviluppo economico Flavio Zanonato a margine del congresso di Unioncamere che si è svolto oggi a Genova. E le privatizzazioni sono un modo per acquisire risorse da reinvestire nella crescita. Queste sono sempre le parole di Zanonato. Per privatizzazione si intende il fatto che alcuni dei beni che l'Italia possiede non sono utilizzati in questo momento e come potrebbero esserlo attraverso questa via. Le privatizzazioni possono essere uno strumento attraverso cui acquisire risorse da reinvestire per la crescita. Nel 2012 con Monti abbiamo pagato 24 miliardi di IMU, nel 2013 se verrà cancellata la seconda rata pagheremo 20, con la service tax di Letta rischiamo di pagare 30, aridateci l'IMU di Monti, così il capogruppo del PDL Renato Brudetta a Mix 24 questa mattina su Radio 24 intervistato da Giovanni Minoli. Nel 2012 con Monti abbiamo pagato di IMU 24 miliardi, nel 2013 se verrà cancellata la seconda rata pagheremo 20, con la service tax di Letta rischiamo di pagare 30, arridateci l'IMU di Monti. Quindi diciamo non abbiamo sbagliato tanto. Assolutamente mi pare no. Che allora, avete per questo, perso insomma. No, non abbiamo perso. Si paga di va più. Va cambiata. A oggi si paga di più. No, a oggi, l'ha detto lei. Siamo in presenza di un disegno di legge, non sì, decreto okay, legge. Ok, ma dico a oggi... Per cose, come sta va il disegno cambiata di... se questa rimarrà noi non ci stiamo okay. No, noi... uscite dal governo assolutamente sì. Bene. L'IMU deve tornare all'IMU del 2013. Perfetto, la service tax deve essere 20 miliardi di euro al non massimo 30. Speriamo insomma che abbia ragione lui, che devo dirvi. Dall'inizio dell'anno un esercito di italiani under 35 ha deciso di tentare la carta dell'impresa scegliendo di mettersi in proprio. Delle quasi 300.000 imprese nate tra gennaio e la fine di settembre, oltre 100.000 hanno alla guida uno o più giovani con meno di 35 anni. A fotografarle è stata Unioncamere. E sempre Unioncamere, oggi ha diffuso anche altri dati, ci sono alcune dichiarazioni del presidente Ferruccio Dardanello che ha detto che le famiglie italiane versano in difficoltà sempre più gravi. Il patrimonio di ciascuno è mediamente diminuito in 3 anni di oltre 4.300 euro. La spesa mensile è crollata a quota 2.400 euro, il valore più basso dal 2005. Il presidente di Unioncamere Dardanello ha anche sottolineato che nel 2013 si stima che i consumi possano diminuire ancora del 2%. E se prima abbiamo dato i dati di imprese che stanno nascendo e che hanno una guida molto giovane, di imprenditori che hanno al di sotto di 35 anni, continua però anche l'emorragia di imprese che già operavano nel nostro paese. Nei primi 9 mesi di quest'anno ne sono fallite 8.900, il 6% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Mentre gli impieghi delle banche verso le imprese si sono ulteriormente ridotti del 5% nell'ultimo anno. E il presidente di Unioncamere, Dardanello, ha anche aggiunto che a questo bollettino di guerra non vogliamo cedere perché crediamo che l'Italia abbia energie e talenti sui quali contare per riscattarsi. Intanto però per la prima volta i bancari vanno in piazza per lo sciopero della categoria, il primo da 13 anni. Tutti i sindacati hanno aderito e hanno organizzato questa manifestazione che si svolgerà giovedì 31 ottobre. Un corteo a Ravenna, città del presidente dell'ABI, Giovanni Patuelli, che è il numero uno della locale cassa di risparmio, e altre manifestazioni ci saranno a Roma, Genova, Padova e a Milano. L'evento sarà anche preceduto, mercoledì 30, in occasione della giornata del risparmio organizzata dall'ACRI, da un presidio a Roma e a Milano. Lo sciopero è stato proclamato contro la disdetta anticipata del contratto collettivo consegnata dall'ABI. Alcoa è pronta a fare un passo indietro e ritirare la mobilità annunciata per quasi tutti i 500 lavoratori di Portovesme, quanto si apprende da fonti sindacali presenti all'incontro che si è svolto oggi al Ministero dello Sviluppo Economico per fare il punto della situazione su questa azienda e la sua operatività in Italia. Il prossimo appuntamento è il 31 ottobre, quindi giovedì, al Ministero del Lavoro sul tema della cassa integrazione. Direi che per le notizie in breve abbiamo terminato, andiamo al primo approfondimento di oggi. Saluto subito il collega del Sole 24 Ore, Giovanni Parente, che mi ha tenuto già compagnia per questa primissima parte del programma e ascoltava molto attentamente le notizie di oggi. Giovanni, buongiorno. Buonasera a voi. Il tema che però affronterò con te, come sempre, farà subito scatenare molti messaggi da parte degli ascoltatori, perché qua ci risiamo. Dico subito una cifra: 200 miliardi di euro. È la stima dei capitali all'estero tornata a crescere dopo l'ultimo scudo fiscale. Questo appunto ci dà la misura di quanto forse sia servito. Il governo punta ad incentivare il rientro con un intervento sulla scia delle raccomandazioni OCSE, che si va ad aggiungere alla procedura già delineata dall'Agenzia delle Entrate. Adesso restano da superare, poi Giovanni ce lo spiegherà, gli scogli delle conseguenze penali per questi rientri e dell'antiriciclaggio. Insieme a Giovanni Parente commentiamo queste notizie con Benedetto Santa Croce, che nostro tributarista del Sole 24 Ore. Buongiorno, buonasera, dottor Santa Croce. Un saluto ci a sente. Tutti gli ascoltatori e un saluto a lei. Allora, Giovanni, cominciamo un po' intanto da questi 200 miliardi, ed era proprio con Giovanni che a microfoni spenti stavamo ragionando sul fatto che questa potrebbe addirittura essere una cifra non corrispondente alla realtà. Potrebbero esserci molte più risorse all'estero da aggredire. Assolutamente sì. Allora, qual è il problema? Non esistono stime ufficiali dell'evasione. Come non esistono in Italia, non esistono di quella che è confluita fuori in questi ultimi anni. Noi abbiamo cercato di fare un lavoro in qualche modo seguendo le indicazioni che aveva fatto, che aveva dato uno studio di Banca d'Italia, che aveva cercato di stimare qual era la ricchezza all'estero, non solo per quanto riguarda l'Italia, ma anche per quanto riguarda altri paesi occidentali, e abbiamo cercato in qualche modo di aggiornarlo quello studio, tenendo presente appunto di quello che era stato la composizione delle regolarizzazioni dei rimpatri avvenuti con l'ultimo scudo fiscale, e quindi in qualche modo facendo una proiezione sul PIL di quanto in qualche modo potrebbe essere stato esportato e di quanto potrebbe trattarsi adesso. Tanto per farvi un esempio, praticamente quei 200 miliardi che dici tu, che hai appena citato, sostanzialmente equivalgono più o meno al 12,5-12,6 del PIL italiano l'anno scorso. Quindi una cifra enorme. Enorme, pazzesca. E da questo punto di vista ci fa rendere conto di quanto sia grave il problema. Il piano del governo in realtà è un'ipotesi allo studio, negli ultimi giorni sta prendendo sempre più corpo. Letta ne aveva parlato nel discorso per la fiducia a inizio ottobre in Parlamento. È un qualcosa che in qualche modo deve contemplare un percorso che già sta seguendo l'Agenzia delle Entrate, sta cercando di collaudare attraverso una sua struttura ad hoc, che c'è un nome in codice, si chiama CIFI, ma in realtà è l'unità centrale per il contrasto agli illeciti fiscali internazionali, che in qualche modo metterà a posto una serie di procedure, di passaggi per la regolarizzazione. Però a fianco, in qualche modo, bisognerà dare un sistema di incentivi e disincentivi. In qualche modo incentivi con una misura delle sanzioni che in qualche modo possa consentire a chi si sta facendo i calcoli per riportare i capitali dentro di farlo effettivamente. Disincentivi in qualche modo per non continuare poi ad esportarli, certo, ulteriormente. Per farne un altro fra due anni, esatto, se no siamo sempre da capo a piedi. Siamo punto e da capo, come con l'ultimo scudo fiscale ha dimostrato. Appunto, volevo farti fare un commento anche su questo. Si dice sempre sarà l'ultimo, perché chiaramente non è che ci facciamo una gran bella figura con queste operazioni, tanto che, anzi, faccio sentire subito un commento di Benedetto Santacroce. Anche Bruxelles ci tiene adesso sotto stretta osservazione per le modalità con cui questa nuova operazione verrà messa in piedi, perché a questo punto non credo più che si tratti di un se verrà messa in piedi, ci sarà senz'altro, bisognerà capire le modalità con cui verranno appunto fatti rimpatriare questi denari. Santacroce, perché sì. Bruxelles adesso ci controllerà di più? Ma voi parlate di scudo fiscale, quindi siete già più avanti di tutti. Lei vuole parlare della voluntary disclosure? No, ma voglio dire, nel senso che evidentemente non è questo il proponimento che c'è, e chiaramente non c'è, nel senso che il problema di fondo è che Bruxelles ha gli occhi buttati su questa cosa, e Semeta, cioè il commissario alla fiscalità, ha un'attenzione puntuale su questo aspetto, cioè il rientro dei capitali può essere un rientro che può essere in qualche modo agevolato sul piano sanzionatorio, sul piano diciamo, ma non certamente sul piano impositivo, e quindi sostanzialmente condoni, amnistie non vengono accettate. E se andiamo a vedere il corso degli ultimi provvedimenti da questo punto di vista di Bruxelles, il segno è molto chiaro, perché si è fatto da una parte, si è osteggiato quegli accordi che alcuni paesi, Inghilterra, Germania, Austria, hanno tentato o comunque realizzato con la Svizzera a fronte di una diminuzione della capacità di ottenere informazioni. Quindi il concetto di fondo è: noi possiamo sicuramente aiutare il rientro di questi capitali, favorire il rientro di questi capitali con strumenti nazionali, quindi sul piano sanzionatorio. Certamente non lo possiamo aiutare con situazioni di sostituzione d'imposta, perché quello evidentemente sarebbe un po' contrario a quella che è l'idea di Bruxelles sul tema. Giovanni, in passato, quando abbiamo commentato, anche lo facevamo, ti ricorderai, a Salvadanaio, perché cercavamo di spiegare appunto alle persone interessate come poter riportare questi, anche qualche volta si trattava per esempio di immobili acquistati all'estero, non lo so, nella totale buona fede, non si denunciavano al fisco, quindi parlavamo effettivamente di briciole, ma insomma nelle operazioni passate abbiamo avuto, ricordiamo appunto, che si trattava anche di questo, no? Quest'ultima operazione difficilmente crediamo a, come dire, situazioni di questo tipo. In buona fede, che si compra una casetta in Francia e si dimentica di appunto regolarizzarla con il fisco italiano. Questo per arrivare a chiederti: chi sono i detentori oggi dei capitali all'estero, secondo te? E soprattutto, perché non ci si pone il problema di chi li aiuta a portarli fuori, questi soldi? Allora, scendiamo i due piani, perché quello che stavi considerando adesso è giustissimo. Allora, chi ha una piccola proprietà, chi ha un piccolo capitale che in qualche modo si è stratificato nel tempo, insomma in qualche modo poi un modo per fargli riportare, regolarizzare, lo trova. Tanto per farti presente questa cosa, noi già da 2 anni a questa parte abbiamo introdotto delle piccole patrimoniali, per quanto riguarda appunto i capitali e gli immobili all'estero. Ti ricordi, ne abbiamo parlato, si chiamano l'IVAFE sulle attività finanziarie, e l'IVIE, che è l'equivalente dell'IMU per gli immobili all'estero. Da questo punto di vista, in qualche modo, può essere anche utile poi la riduzione delle sanzioni, che è già avvenuta per quanto riguarda chi omette di indicare queste attività nel quadro RV, che è l'angolo preposto alla dichiarazione dei redditi per ospitarle, una diminuzione delle sanzioni, che tra l'altro è stata imposta dall'Unione Europea, perché insomma noi erano talmente alte da essere ritenute sproporzionate rispetto alla finalità. Il problema vero, che è quello che sottolineavi tu, è che ci sono ingenti capitali che sono stati portati all'estero, che sono maturati, che si sono proliferati anche grazie alla speculazione finanziaria. Cioè, questo dobbiamo dirlo, perché se vediamo la proporzione dell'ultimo scudo fiscale, i 60 miliardi, che praticamente costituiscono più o meno il 61% degli importi regolarizzati tra rimpatri e appunto regolarizzazioni, viene da titoli... In maniera dignitosa la chiamano regolarizzazione, non ci piace più scudo fiscale. No, chiamiamolo pure sanatoria, se la vogliamo chiamare così, perché è quello. Sono di titoli, obbligazioni, azioni, fondi, quindi è qualcosa legato in qualche modo a una finanza speculativa. Bisogna avere anche il coraggio di dirlo, perché sennò altrimenti stiamo parlando di... possono esserci casi sporadici di dimenticanze, ma qui sono proprio capitali che vengono portati all'estero proprio con l'intento di fruttare e di non essere tassati in Italia. Anche perché l'abbiamo visto l'altro giorno su Sole 24 Ore, l'ammontare delle imposte sul risparmio e investimenti è salito a 13 miliardi a gennaio, dato di gennaio-agosto di quest'anno. Quindi insomma, in qualche modo... tenerlo in Italia significa subire una tassazione che è piuttosto pesante da questo punto di vista, anche per quanto riguarda i capital gain tutti gli annessi e connessi. Quindi in qualche modo c'è poi il fenomeno di dover parlare poi con gli interlocutori che sono anche gli intermediari finanziari e dover fare anche un discorso a loro da questo punto di vista. Nei confronti dei quali si apre anche l'altro fonte caldo, che è quello del riciclaggio, immagino, no? Assolutamente. Santa Croce, che mi dice da questo punto di vista? Perché chiaramente i professionisti sono chiamati a segnalare le operazioni sospette dei contribuenti che assistono nel rimpatrio. Anzi, questo è proprio un elemento che tirate fuori, che è importantissimo, perché secondo me i professionisti devono fare particolare cautela proprio sulla attività di controllo e quindi poi sull'attività appunto antiriciclaggio che può essere collegata a queste operazioni. Per cui è evidente che quello che si è visto negli ultimi mesi è che le amministrazioni centrali, le forze di polizia, la Guardia di Finanza hanno dato particolare forza ai controlli sul rispetto degli obblighi antiriciclaggio che sono connessi direttamente a queste operazioni. E poi evidentemente sottostanti sicuramente a questi movimenti ci sono sicuramente attività di capitali che si sono formati illecitamente, ma non per evasione fiscale, ma proprio illecitamente sulla base di reati di tipo penale pesante, che evidentemente sono poi sottoposti a una forma di lavatura e quindi di riciclaggio attraverso questi strumenti. Quindi una forma di regolarizzazione dovrebbe tener conto da una parte anche delle vere e proprie fattispecie, la distinzione che veniva fatta da Parente prima tra i due elementi che mi sembrano fondamentali, cioè una tipologia di ricchezza che può essere abbastanza limitata, che sono gli immobili, le successioni, i beni che entrano nel patrimonio del soggetto che poi deve regolarizzarli. Esatto, molto, perché questi non vanno rimpatriati ma regolarizzati, ecco. Esatto, è molto diverso rispetto evidentemente a una situazione invece di tipo speculativo dove i soldi vengono portati fuori o addirittura estero su estero capitalizzati. Ma lo Stato ha gli strumenti per poter fare questa distinzione? Secondo me allo stato attuale non ce l'abbiamo, o meglio ce l'abbiamo solo in parte, proprio nel riconoscimento, diciamo, di quella buona fede di cui parlava Parente, cioè di una situazione in cui la normativa mi consente una riduzione graduale delle sanzioni fino alla completa, diciamo, abolizione della sanzione amministrativa, che sicuramente è plausibile in relazione al primo fenomeno. Al secondo fenomeno in questa situazione mi sembrerebbe un po' più complessa. Sul Sole 24, sì. Diciamo, ha gli strumenti sicuramente per le sanzioni amministrative, poi il vero punto interrogativo sono ovviamente i riflessi invece che ci davate all'inizio di carattere penale, dove evidentemente lì c'è una barriera per ora del tutto insormontabile. Allora, a proposito di questa sanzione amministrativa, come l'ha chiamata, sul Sole la definisci, Giovanni, sanzione premiale, no? Per la persona che rimpatria, facciamo una per capire intanto quali percentuali circolano come idea, anche se ancora non abbiamo un provvedimento su questo, appunto, ammettendo che c'è un evasore, insomma, furbissimo che si è portato fuori dall'Italia, che ne so, 1 milione di euro. No, ti faccio una stima a spannissime, perché chiaramente il problema delle sanzioni in Italia, come l'ordinamento tributario ci insegna, è che la loro stratificazione, poi c'è una norma che ne dispone l'abbattimento di un sesto, l'altra norma che le fa allora, i ricorsi, la violazione dei rapporti con, perché vabbè e insomma, tanto per intenderci, sostanzialmente più o meno qualcuno ha stimato che cumulo di sanzioni e quant'altro potremmo arrivare intorno al 22% dell'importo. Allora faccio un esempio: voglio rimpatriare 100.000 euro, mi toccherebbe pagare di sanzioni 22.000 euro, sostengono, è un calcolo a spanne che è stato fatto. Che cosa significa? Che praticamente su questi 22.000 euro poi ci saranno anche le imposte le imposte non pagate, che sono legate ovviamente a delle rendite che si sono state percepite su quei capitali, quindi insomma si può arrivare anche a 30.000 euro in alcuni casi. Qual è il break even sostanzialmente? Cercare una percentuale che invogli a portarli dentro. Sì, 5%, come siamo contenti, dai, su, andiamo tutti, riportiamoli in Italia. Che però non sia appunto lo scudo fiscale 5, 6, 7 nell'ultima versione 2009-2010, quindi sia sopra il 10, e che probabilmente però, azzardo questa previsione, non sia più oltre il 20, perché se la tassazione delle rendite finanziarie è sul 20, Poi andare in qualche modo a prelevare più del 20 diventa disincentivante da questo punto di vista. Quindi è un calcolo abbastanza complesso, si devono mettere lì con le calcolatricine e farci capire. Trovare la famosa aliquota che involghi questo rientro, che involghi, insomma, questo spontaneo. Senti, un'ultima domanda, sulle Sole 24 Ore di oggi c'è un'analisi di Angelo Cremonese, la roadmap che deve condurre alla legalità. Questo per arrivare a chiederti quando ne sapremo qualcosa di più, se questo provvedimento sarà varato a breve, se ci sarà o se si farà marcia indietro, non lo so, tempi, step. Allora, tempi e step, molto probabilmente è un percorso che potrebbe viaggiare nella legge di stabilità o in parallelo alla legge di stabilità. Adesso, insomma, non è inutile mettere il carro davanti ai buoi, però ci sono partite che sono in qualche modo che viaggiano in parallelo. L'IMU la citavi prima, c'è la partita del cuneo, quindi insomma in qualche modo reperire queste risorse o avere comunque un gettito preventivabile da queste risorse consentirebbe poi di fare, avere margini di manovra per quanto riguarda poi appunto l'abbattimento, la pressione sulla fiscalità immobiliare ed eventualmente insomma, anche tanti più soldi rientreranno in futuro, tante più risorse ci saranno per altre cose, come appunto per l'ulteriore magari riduzione del cuneo fiscale, per magari rimodulare di nuovo la tassazione sulla casa, insomma alleggerire anche dalla tassazione delle tasche degli italiani. Grazie Giovanni Parente, buonasera. Grazie, buonasera a voi dell'invito. Benedetto Santa Croce, buonasera anche a lei, grazie. Grazie a tutti. A presto, ci fermiamo adesso perché abbiamo la nostra prima pausa, poi andremo a raccontarvi la giornata di borsa che si chiude molto meglio per Milano con un calo molto più modesto rispetto a come stava andando. Allora, la settimana, come vi abbiamo già anticipato, si è aperta negativamente per l'Europa, contrariamente invece a come è andata la situazione questa mattina, la giornata sui mercati asiatici, perché hanno chiuso tutti con il segno più e anche Wall Street tutto sommato sta andando bene, contrastata adesso, ma lo Standard & Poor's continua ad essere positivo e continua a consolidare i suoi record storici. Adesso per l'indice più importante di Wall Street il rialzo dello 0,13%, per il Dow Jones più 0,01%, leggermente il segno meno sul Nasdaq, meno 0,07%, ma adesso andiamo a raccontarvi la giornata di Piazza Affari. Anche se come sempre utilizziamo il nostro jingle che in realtà ci dà l'apertura a Wall Street con la campanella. Flavia Carletti, Radio Cori, Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, giornata un po' volatile insomma per Milano, perché se non mi ricordo male stamattina è partita bene, poi è scivolata, è arrivata a perdere più di un punto, adesso chiude con meno 0,24%. Come mai tutto questo nervosismo? Esattamente, allora... Piazza Affari ha pagato la debolezza di molti titoli bancari che nel corso della giornata hanno sofferto, in particolare per un report di Moody's secondo il quale i criteri che verranno usati dalla Banca Centrale Europea per i prossimi stress test saranno negativi, in particolare per le banche italiane con indici di capitale più deboli, e quindi questo si è col fatto che su Milano comunque, come sappiamo, molti bancari pesano molto sugli indici, questa cosa ha scatenato le vendite. Poi però sul finale sono arrivate una serie di notizie positive per alcuni titoli che quindi in qualche modo hanno fatto recuperare gli indici. Per esempio Saipem ha chiuso con un rialzo del 5% grazie alla pubblicazione dei conti trimestrali, e anche Luxottica ha fatto un'ottima performance salendo del 3-6% in attesa dei conti. E poi ci sono alcuni titoli bancari che si sono staccati completamente dal settore, hanno seguito delle storie a parte, in particolare Mediobanca e Monte dei Paschi. Adesso le raccontiamo. Tra l'altro, sempre a proposito dei bancari, visto che il legame è inscindibile, volevo anche un po' raccontare che oggi c'è stata un'asta dal Tesoro italiano di CTZ che è andata bene, con tassi in ribasso, e soprattutto questo è un auspicio positivo visto che domani c'è sul mercato un'operazione più corposa di botta a 6 mesi, se non mi ricordo male, per 8 miliardi, per cui il mercato domani avrà appunto un appuntamento un po' più significativo. Detto questo, andiamo appunto ai casi del giorno. Come Flavia ci segnalava, su Saipem l'abbiamo detto, scatto sul finale dopo i conti, Luxottica più 3,63, Mediobanca più 3,32%, per Piazzetta Cuccia i conti. Esatto, Piazzetta Cuccia ha pubblicato i conti del primo trimestre dell'anno fiscale 2013-2014, perché all'anno sfalsato rispetto alla maggior parte delle altre società, e sono stati superiori all'attese. L'utile netto ha registrato un rialzo del 57% rispetto all'anno precedente, arrivando a 171 milioni di euro, mentre le attese del mercato erano per circa 150 milioni di euro, quindi questo, il fatto che abbia superato le attese degli analisti, è stato premiato dagli investitori. Andiamo invece, tanto mi sto strozzando, a Monte dei Paschi. più 2%, perché qua il gruppo di Rocca Salimbeni, che ha la disperata ricerca di capitali da qualche parte, pare che si sia fatto avanti qualche fondo avvoltoio addirittura. Sì, esattamente, l'ha riportato oggi, ieri l'aveva riportato il Sole 24 Ore, secondo cui alcuni hedge fund americani stanno valutando di partecipare all'aumento di capitale da 3 miliardi della banca senese, e si fanno i nomi di parecchi fondi che sarebbero interessati, addirittura sono circa 6, e in più ci sarebbero anche alcuni fondi sovrani che stanno valutando la situazione. E insomma, non ci sembra una cattiva notizia. Evidentemente anche il piano di lacrime e sangue che stanno portando avanti Alessandro Profumo con Fabrizio Viola, evidentemente da qualcuno viene apprezzato. Agli altri titoli con i rialzi più forti: Ansaldo più 2,81%, Salvatore Ferragamo più 2,24%, Autogrill più 2,12%. Andiamo a vedere invece le maglie nere di questa giornata. Ancora una volta se la giudica Fiat, che perde il 3,20%. Ci sono delle particolari notizie, poi c'era anche Ansaldo da commentare. Su Fiat diciamo ha risentito della debolezza del settore auto europeo, che oggi ha pagato un report di JP Morgan che ha tagliato il giudizio su tutto il comparto, dicendo che negli ultimi mesi è andato meglio del mercato, ha sovraperformato del 31%, e quindi in questa fase la banca d'affari ha preferito assumere un giudizio più cauto e ha abbassato la raccomandazione da overweight a neutra, dicendo che comunque in questa fase forse è meglio vendere, e probabilmente il messaggio è arrivato chiaro a molti, tanto che comunque sia Peugeot che Renault a Parigi, tanto che Daimler e Volkswagen e BMW a Francoforte, sono stati tutti penalizzati. Mm-hmm. Fiat inoltre c'è l'attesa comunque per i conti che verranno pubblicati mercoledì, e secondo i dati diffusi del Consensus l'attesa è che per l'utile della gestione ordinaria sarà inferiore a quello del terzo trimestre del 2012. Tra l'altro, a proposito di società che rassegneranno i conti mercoledì, c'è anche Eni, perché vedo proprio da radio che c'è qualche anticipazione rispetto al Consensus degli analisti. A2A tra gli altri cali consistenti: meno 3%, Intesa San Paolo meno 2,33%, la Popolare di Milano meno 2,30%, Unicredit meno 2%, Mediolanum meno 2%, il Banco Popolare meno 1,84%. Dicevamo che avevamo in sospeso un commento su Ansaldo, che invece ha fatto più 2,81%. Su Ansaldo c'è grande attesa per la vendita, è una delle società controllate da Finmeccanica che è sul mercato, e oggi Corriere Economia ha scritto che il piano di dismissioni dovrebbe prevedere una vendita in tandem di Ansaldo STS con Breda entro marzo 2014, e si fanno i nomi di due acquirenti con cui ci sarebbero trattative in corso, General Electric e Hitachi. Hanno commentato anche alcuni analisti, in particolare quelli di Equita danno General Electric in pole position per l'acquisto, e quindi il giudizio è positivo perché in qualche modo si considerano i piani di Finmeccanica per le dismissioni raggiungibili, e quindi tutto diciamo si dà meno peso al fatto che possano esserci influenze politiche sulle varie decisioni, e quindi si prevede che per la controllante possa esserci una chiusura positiva del 2013, e quindi che questa possa essere dettata proprio dal contributo delle cessioni. Per una volta tanto vedo due editoriali in grande forma a Piazza Affari, sono Telecom Italia Media più 13%, Mondadori più 6,49%. Comincerei con il primo: cosa succede in casa di Urbano Cairo? Allora, Team Media è la società che ha venduto la 7 a Cairo, e oggi è uscita la notizia la notizia è uscita venerdì, oggi il mercato l'ha recepita, che Cairo dovrà pagare 4 milioni e 8 in più l'acquisto di la 7, quindi il titolo che aveva la società che aveva venduto inizialmente Telecom Italia Media solo per 1 milione di euro si trova ad avere, diciamo, un incasso inaspettato rispetto a quello che erano le previsioni, e quindi oggi è stata la migliore del listino con questo rialzo del 13%. Diversa invece la questione per Mondadori, che in qualche modo ha giocato più su alcune indiscrezioni stampa. Si parlava di una possibile staffetta alla guida tra Marina e Barbara Berlusconi, e le due interessate non hanno smentito direttamente. Però ma è anche curioso questo rialzo del titolo, perché l'uscita di scena di Marina, che se andasse a candidarsi in politica come suo padre vorrebbe, e l'ingresso di Barbara viene particolarmente apprezzato, mi sembra, dal mercato. Sì, probabilmente forse magari potrebbe essere una novità, o comunque magari si scommette su possibili movimenti futuri. L'unica cosa è che appunto ha destato interesse sul mercato il fatto che in qualche modo nessuna delle due ha smentito direttamente. Marina ha semplicemente detto no alla politica per l'ennesima volta, però non ha fatto accenno a questo possibile passaggio di Barbara al controllo di Mondadori, mentre invece Barbara ci ha tenuto a precisare che il suo futuro per ora è nel Milan, però in qualche modo appunto il mercato ha continuato un po' forse a giocare su questa smentita. Qualche cosa bolle in pentola. Grazie a Flavia Carlini. Orletti di Radio Cuore, il Sole 24 Ore. Buona serata, Flavia. Grazie. Ed eccoci ritrovati in diretta, saluto subito e ringrazio Marco Ferrando del Sole 24 Ore, buonasera Marco. Buonasera. Allora, uno apre il sito del Sole 24 Ore oppure apre le pagine del quotidiano e legge: con la messa in amministrazione straordinaria di Banca Marche di venerdì scorso salgono a 12 le banche italiane sotto la tutela della vigilanza di via nazionale, cioè della Banca d'Italia. Un plotone di piccoli e medi istituti le cui fila si sono ingrossate a dismisura proprio quest'anno. Dall'inizio del 2013 sono ben 8 gli istituti commissariati e direi io l'anno non è ancora finito, ma speriamo di finirla qua. Allora, Marco, le novità intanto in casa di Banca Carige, ma soprattutto, insomma, qual è la sensazione che sia, speriamo veramente che sia l'ultima storia quella che raccontiamo di Banca Marche? Sì, beh, diciamo anzitutto che nella, come dire, blacklist, le 12 banche di Banca Italia, per fortuna la maggior parte di queste banche sono piccoli istituti, molte BCC, quindi istituti comunque con dimensioni ridotte. E Banca Marche effettivamente, insieme per esempio alla Popolare di Spoleto, che è una delle altre banche, come dire, illustri, finite un po' nel mirino della vigilanza, invece si parla di istituti con decine, centinaia di sportelli, migliaia di dipendenti e quindi anche migliaia di clienti. L'effetto evidentemente è quello della crisi, che si ripercuote su banche molto esposte sui crediti. In più spesso ci sono problemi di gestione passata, questo per le banche della blacklist. Allora, la novità appunto più recente riguarda, anzi diciamo che ce n'è una in corso perché domani per Banca Carige c'è la nomina del nuovo amministratore delegato, che potrebbe essere, che è Piero Montani, quindi questa è una novità importante, una chiusura forse definitiva appunto col passato, con questa gestione anche piuttosto allegra, come avete scritto più volte anche sul Sole 24 Ore, di finanziamenti dati appunto ai soliti amici dei vertici. E ma non c'è solo questo appunto per Banca Carige, intanto è importante la novità dell'arrivo di Montani? Sì, è importante perché Banca Carige è un istituto grande, quotato, insomma, tra le prime 10 banche italiane, quindi, come dire, la rilevanza è più elevata di molte altre banche finite nel mirino di Banca Italia. Carige era un po' borderline, da mesi era finita, diciamo, al centro di una tempesta, prima un'ispezione di Banca Italia che aveva portato ad approvare un piano di rafforzamento di capitale da 800 milioni presentato a febbraio, poi un grosso problema prima dentro la banca, poi anche dentro la fondazione. Non dimentichiamo che Banca Carige di fatto ha un grande azionista che è la Fondazione Carige, che ha più del 40%, che quindi ha un peso rilevantissimo nella gestione. Il tutto, sempre appunto sotto l'occhio molto attento di Banca d'Italia, faceva, così si leggeva, si sosteneva, che l'ipotesi del commissariamento anche per Banca Carige potesse in qualche modo essere, come dire, possibile. A questo punto, con la nomina che verrà ufficializzata domani di Piero Montani come nuovo amministratore delegato, la sensazione è che la tensione si stia alleggerendo. Sappiamo che Montani, uomo di grandi ristrutturazioni bancarie, arriva da BPM, dove appunto ne ha condotta una, ne sta conducendo una, è gradito in qualche modo la vigilanza, perché in qualche modo gli si, come dire, gli si riconosce la capacità di gestire situazioni non facili. Per quello che riguarda invece Banca Marche, che cosa vuol dire passare da un commissariamento ad una messa in amministrazione straordinaria? Vuol dire che i tempi di gestione, come dire, controllata dalla Banca d'Italia si allungano. Quindi il CDA di fatto viene sterilizzato, questo da un lato... Diciamo, viene messo nelle condizioni di non fare ulteriori danni. Esatto, ecco. Anche se in caso di Banca Marche c'erano già stati i ricambi, esatto, la storia è lunga, le puntate sono tantissime. È vero. Diciamo che è un elemento di garanzia da un lato, perché vuol dire che evidentemente sei sotto l'ombrello protettivo, come dire, non può succedere nulla di terribile, però è chiaro che per esempio Banca Marche dovrebbe portare avanti un aumento di capitale da 400-500 milioni, finché ci sono i commissari questo aumento non si può fare. Allora, come era facilmente prevedibile, molti ascoltatori ci stanno chiedendo: diteci i nomi di tutte e 12 le banche. Mi sono aperta la tabella che ho trovato sul Sole 24 Ore, vedo che Marco ce l'hai anche tu, allora alcune le abbiamo già citate, Banca Marche appunto, andiamo agli altri, così almeno togliamo anche queste curiosità. Per la Popolare di Spoleto pure l'abbiamo già citata. Ma sì, ci sono diverse BCC, quindi ad esempio la BCC di Alberobello, la BCC di Benevagenna, la BCC Euganea di Ospedaletto Euganeo, la BCC del Veneziano, la BCC di San Francesco, la BCC di Monastie del Sirio e chiudiamo con le BCC. Con le banche tra virgolette non cooperative abbiamo la Cassa di Risparmio di Ferrara, altro caso diciamo illustre, che era deflagrato nel maggio scorso, il commissariamento è anche qui un caso recente. Abbiamo la Banca Tercas, che è la Cassa di Risparmio della provincia di Teramo, quindi Medio Italia Italia diciamo centrale meridionale, e abbiamo l'istituto per il credito sportivo. In questo caso il commissariamento risale addirittura a gennaio del 2012. È curioso però insomma vedere tutta questa lista di casse di risparmio e banche di credito cooperativo, perché anche nei momenti più duri della crisi recente e attuale che ancora stiamo vivendo, in molti appunto suggerivano anche alle persone così un po' scoraggiate dal mondo del credito, quello grande, quello globale, andate nelle piccole banche perché lì siete sicuri, sono le banche del territorio. Invece qua forse è proprio il territorio che tradisce qualche volta. Ma a onor del vero le BCC sono tantissime, quindi vederne molte non in teoria statisticamente è verosimile. È anche vero che spesso le premesse per un commissariamento si pongono con una gestione diciamo allegra del credito, e è vero che sul territorio dove ci si conosce, dove nel bene e nel male, quindi possono nascere come dire relazioni viziate, o magari ci può essere un come dire degli affidamenti fatti in buona fede dal classico direttore di filiale che però poi ha clienti che poi non rimborsano le rate, una BCC è più facile. Diciamo che non, allora non per tutte la gestione è stata fatta in maniera come dire allegra e leggera, troppo a favore di amici dei vertici, come dire in qualche caso veramente si finisce in difficoltà perché anche la crisi economica che trascina verso questi baratri. Ci sono dei casi appunto in questo senso fra questa lista. Esattamente. E Marco, poi è chiaro che più la banca è piccola e più basta un caso singolo, pochi casi singoli a creare dei danni irreparabili. E non a caso, giusto per allacciarsi a questione di cronaca, con l'unione bancaria l'asticella sarà sempre più elevata e quindi le banche piccole faranno sempre più fatica, le banche piccole medie. Perché prima dicevi che è un caso clamoroso quello del risparmio di Ferrara? No, è clamoroso perché il territorio come dire è ricco, la provincia è ricca, quella di Ferrara, è un caso clamoroso perché appunto di gestione molto allegra in questi casi, e questo dimostra che un territorio può essere ricco finché vuoi, ma se la gestione non è prudente anche la miglior banca può saltare. Che cosa può succedere adesso a questi istituti di credito? Nel senso che giustamente molte persone si preoccupano, ci sono tutte le persone che hanno magari solamente un conto corrente, hanno un piccolo investimento, magari sono azioniste di queste banche, perché spesso avviene anche questo, però insomma non credo che dobbiamo temere, non so, chiusure, fallimenti, bancarotta. Ci sono delle situazioni per le quali dobbiamo temere il peggio, Marco, oppure possiamo stare tranquilli? Beh, diciamo che non si può generalizzare, quindi bisogna vedere caso per caso. Come accennavo prima, la presenza di Banca Italia è una garanzia anzitutto per i clienti, per gli azionisti, per i risparmiatori che sono coinvolti, quindi non c'è da correre allo sportello, correre a ritirare i risparmi, anche perché poi ci sono garanzie di legge, per cui non è che dall'oggi al domani mi posso trovare col conto azzerato, quindi non avere più i risparmi. Sicuramente quello che la vigilanza, abbiamo visto anche in altri casi, cerca di fare è un intervento di sistema. Esempio, nel caso delle BCC, solitamente se c'è una singola banca che ha delle difficoltà, il sistema, che per fortuna è molto capillare, cerca di intervenire, quindi come dire sanando e la poi, situazione. Come dire, proprio in estrema ratio, qualora per una di queste la situazione appunto evolvesse al peggio, c'è sempre il fondo interbancario di tutela dei depositi, per cui ci sono anche queste garanzie per tutti i correntisti. E poi qualora proprio veramente siate spaventati, vabbè, per fortuna il mercato è ricco e si può andare in un altro sportello. Marco, abbiamo raccontato tutto? Direi proprio di sì. La cronaca comunque delle prossime settimane, dei prossimi mesi sarà sicuramente ricca di sviluppi. Speriamo non di colpi di scena troppo appunto clamorosi. Grazie. Eccoci ritrovati in diretta. Allora andiamo molto velocemente perché abbiamo ancora tanti fatti da commentare insieme a voi. Allora, in primo luogo ritorniamo a parlare di banche. Prima abbiamo appunto commentato con Marco Ferrando del Sole 24 Ore la situazione di banche problematiche. Ce ne sono 12 appunto praticamente commissariato, un'amministrazione straordinaria del nostro paese. E però c'è un'altra notizia che riguarda il mondo bancario, perché per la prima volta i bancari vanno in piazza. Giovedì 31 ottobre c'è lo sciopero nazionale di categoria. E allora Lando Sileoni, segretario generale della FABI, il sindacato appunto dei bancari, spiega le ragioni dello sciopero di giovedì ai microfoni di Valentina Innocente. L'atteggiamento delle banche dal nostro punto di vista è chiaramente inconcepibile. Hanno disdettato un contratto nazionale che scade a giugno del 2014 e vogliono dal nostro punto di vista raggiungere due obiettivi: o fare un contratto nazionale alle loro condizioni prima della scadenza dell'attuale contratto, oppure dare la possibilità alle banche, alle aziende, ai grandi gruppi bancari di farsi i loro contratti aziendali e di gruppo, distruggendo, cancellando una tutela economica e normativa che garantisce i 309.000 addetti del settore. Per noi è inconcepibile, dopo aver raggiunto, tra l'altro, prima dell'estate, accordi nei principali 14 gruppi bancari che hanno portato poi a prepensionamenti volontari di 19.800 persone fino al 2020. Lei tenga presente che da gennaio del 2000 a tutto il 2020 il settore bancario ha perso e perderà circa 70.000 posti di lavoro. Guardi, in molti, non solo nel settore bancario, ma nella società civile e nel mondo del lavoro, stanno cercando di scimmiottare quello che Marchionne ha fatto in Fiat da gennaio del 2012 in poi, ma noi ci opporremo in ogni mezzo. Quindi molto probabilmente all'interno di ABI, l'associazione delle banche italiane, c'è una componente che vorrebbe farsi proprio i contratti aziendali di gruppo, peggiorando le condizioni economiche e normative dell'attuale contratto nazionale. C'è un altro argomento che pesa, sono circa i 140 miliardi di sofferenze bancarie che le banche vogliono scaricare, addebitare sulle spalle dei lavoratori anche all'interno dei piani industriali. Quindi per noi recuperare la cattiva gestione delle banche e recuperare la crisi economica, che chiaramente grava sulle banche anche attraverso le sofferenze bancarie, tutto sulle spalle dei lavoratori, è veramente inconcepibile. E se non cambiano atteggiamento, no, questo sarà soltanto il primo di una lunga serie di scioperi. E dalle banche andiamo ad un altro comparto. Allora, l'Osservatorio Alta Gamma 2013, annuale appuntamento che fotografa l'industria mondiale del lifestyle di eccellenza, si è aperto quest'anno con la tavola rotonda Milano e le eccellenze creative, dove Milano è intesa come vetrina dell'intera produzione creativa italiana. Per valorizzare l'Italia e le sue eccellenze è nato il progetto di realizzare un brand per Milano, quale vetrina della produzione creativa nazionale. Un progetto ispirato da Camera della Moda, Cosmi, dall'assessorato alle politiche per il lavoro, sviluppo economico, università e ricerca del Comune di Milano e Alta Gamma. Claudio Vanni ha intervistato il presidente della Fondazione Alta Gamma, Andrea Illi. Riteniamo che per sfruttare trasversalmente, perché questo è il grande vantaggio competitivo, queste eccellenze creative, ci sia bisogno di un progetto di coordinamento e di cooperazione tra tutti coloro che contribuiscono a questi sistemi, a questi settori industriali. Sarà quindi un marchio che contraddistinguerà tutte le eccellenze italiane? Alta Gamma è già un marchio che contraddistingue le eccellenze stilistiche italiane. Milano sarà il marchio della Milano creativa, della Milano hub, piazza, mercato, vetrina. Conviene ancora investire in Italia nonostante l'instabilità politica? L'Italia è uno dei paesi più ricchi al mondo, sia in termini di patrimonio, di bellezza. E ricordo che la bellezza è la linfa, e quindi la risorsa principale per generare la creatività. È anche un ricchissimo di risorse sotto forma di capitali e di risparmi, solo che non vengono messi a sistema. Quindi io credo che sia come una molla molto compressa che possa scattare molto rapidamente, come altre volte nella storia del paese, fin dalla storia antica è successo. Paese delle grandi crisi, prende un velocissimo rilancio. Ma la manodopera resta in Italia? La credibilità del prodotto italiano deve essere a 360 gradi, sia dal punto di vista dell'eccellenza creativa che dell'eccellenza manifatturiera. Quindi tutto ciò che è stato accidentalmente e temporaneamente delocalizzato dovrà rientrare in Italia. E per il lusso il 2013 sarà ancora un anno di crescita, se mai si fosse fermato. Per i beni personali di altissima qualità sono stati spesi ben 217 miliardi di euro, solo 100 in meno rispetto alle automobili. E anche in questo settore che le imprese italiane si ritagliano le proprie quote di mercato, come spiega Armando Branchini, vicepresidente della Fondazione Alta Gamma, i microfoni sempre di Claudio Vanni. Nel settore dei personal luxury goods, cioè i beni di alta gamma per la persona, grosso modo una quota di mercato del 30%, come anche la Francia. L'ultimo 20% si divide tra Svizzera, Gran Bretagna, Germania e Spagna. Nel settore del design l'Italia mantiene il suo 70% di quota di mercato mondiale nel design di alta gamma per la casa. Quali sono i mercati in cui si vende maggiormente? Beh, certamente nel 2012 e nel 2013 la vera Cina per le imprese alta gamma sono stati gli Stati Uniti, aggiungendo anche il Canada e il Messico, proprio perché il Nord America rappresenta circa il 28% dei consumi mondiali. Una crescita del 6% composto tra 2012 e 2013 e ci auguriamo anche 2014 fa sì che, ripeto, la vera Cina per questo settore dell'industria europea e italiana è proprio il Nord America. L'euro si è apprezzato rispetto a tutte le altre valute, dallo yen al dollaro, alla sterlina, al renminbi, al franco svizzero, che hanno tutte svalutato nel corso dell'anno. Per cui è sempre più difficile esportare prodotti italiani ed europei. Si vende ancora in Italia? Rispetto a un'Europa che quest'anno dovrebbe crescere, nel 2013 i cui consumi dovrebbero crescere attorno al 3,5%, l'Italia cresce del 2%, però la metà di questo è comprato da turisti. Eccoci ritrovati in diretta, ancora buonasera a tutti da Deborah Rosciani per l'ultima parte di Focus Economia. Saluto subito l'ospite che commenterà con noi una notizia che adesso vi spiegherò. Allora, Stefano Firpo, capo della segreteria tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico, che saluto, buonasera dottor Firpo. Buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori. Allora, il dottor Firpo insieme a Fabrizio Pagani e Alessandro Fusacchia fa parte della task force interministeriale che si occupa di Destinazione Italia, che è quel progetto appunto del quale, come ricorderete, ha parlato anche, soprattutto è andato negli Stati Uniti per questo, il Premier Letta, per in sostanza spiegare come si sta muovendo il nostro paese per cominciare ad attrarre in maniera ancora più significativa, per la verità lo ha sempre fatto, ma per farlo in maniera più incisiva, investimenti stranieri appunto verso il nostro paese. E allora, perché oggi ci occupiamo di questo? Vi spiego un po' com'è nata questa nostra idea. C'è nata perché ci ha scritto dagli Stati Uniti un imprenditore che lavora nel settore immobiliare, è il fondatore di Vivaldi Real Estate, questa persona si chiama Guido Pompili, e ci ha raccontato che nella sostanza ha tra le mani un business molto significativo, ma siccome questo progetto Destinazione Italia ancora non è formalmente partito, lui è in difficoltà. Abbiamo raccolto poco fa la sua testimonianza, sentiamola poi la commentiamo con Stefano Firpo. Da oltre 20 anni assisto gli italiani, i capitali italiani che vengono ad investire nell'immobiliare a Manhattan, e recentemente speravo di poter fare anche un traffico al rovescio, cioè far venire dei capitali americani in Italia, e in particolare ho trovato un hotel, una catena molto interessata all'acquisto di un hotel a Roma, un 5 stelle che è in procedura fallimentare, e il problema del mio cliente, o la preoccupazione del mio cliente, è quella di poter ottenere in tempi ragionevoli delle autorizzazioni, perché vuol fare delle trasformazioni, diminuire il numero delle stanze, fare una grande terrazza all'ultimo piano con un bar, eccetera eccetera. Senta, per far capire di che tipo di operazione stiamo parlando, quanti soldi è disposto a mettere sul piatto questo investitore intanto? Allora, l'intero investimento è di circa 47 milioni di euro, che sarà in parte finanziato, e in parte sarà del capitale fresco che metterà il nostro cliente. Spieghiamo le motivazioni per cui l'operazione, come dire, potrebbe essere compromessa dalle consuete problematiche burocratiche italiane. Sì, come le dicevo, la preoccupazione del mio cliente, una delle preoccupazioni principali, è quella di avere dei tempi molto lunghi per ottenere delle autorizzazioni, cosa che farebbe saltare poi il business plan, o anche dei tempi molto lunghi per i rimborsi IVA. E io ero molto contento quando il mese scorso ho sentito che l'Italia si stava dando da fare per favorire gli investimenti esteri in Italia con un nuovo programma che si chiama Destinazione Italia, che è stato presentato da Letta qui a New York. E quindi ho cercato di saperne di più. Il primo punto è stato di cercare di avere informazioni al consolato di New York, perché penso che New York, essendo la città più importante da un punto di vista economico, possa avere anche più informazioni che non l'ambasciata. Naturalmente ho cercato sul sito del consolato, non c'è niente, non sono cerca Destinazione Italia, ancora oggi ho guardato un momento fa, non c'è scritto niente. E poi ho fatto telefonare dalla mia collega, che è molto brava ad ottenere informazioni al telefono, e la quale è riuscita, dopo un primo così ostacolo con la persona che ha risposto, che non sapeva nemmeno di cosa parlare, a parlare con una funzionaria, chiedendo di avere informazioni su come si può, su chi è in grado di dare delle informazioni su come raggiungere questo tutoraggio. È uscito un piccolo volumetto con un po' di informazioni, apparentemente c'è la possibilità di uno sportello unico, direi, per le società straniere che vogliono investire in Italia. E sportello unico che dovrebbe dare delle certezze sui tempi, sui modi e sulla gestione dell'intera pratica. E quindi abbiamo cercato di avere qualche informazione, però non ne sapeva niente nessuno. Questa signora ci ha detto, anzi ha detto alla mia collega, di scrivere ad alcune persone, ho qui i nomi, e la mia amica e collega gli ha chiesto, va bene, quali sono le email? Dice, ma guardi, non c'è bisogno, lo mandi ad info, anzi a newyork.info@esteri.it. Certo, che senta, naturalmente è una risposta molto reticente, certo. Non è una risposta io utile. Abbiamo capito qual è il nocciolo della questione. Comunque il programma Destinazione Italia in questo momento è in fase di audizione dei soggetti che potrebbero essere potenzialmente appunto interessati a promuovere i loro investimenti all'estero, a richiamare anche investimenti dall'estero, quindi non è ancora tutto pronto il programma, ma mi chiedo, noi abbiamo nei prossimi minuti a disposizione il capo della task force che al Ministero dello Sviluppo Economico si sta appunto occupando proprio di tutta la programmazione. Che cosa gli vorrebbe chiedere? Ma vorrei sapere per esempio se non sarebbe stato opportuno, se non altro, rispondere con due righe ad una richiesta di questo genere fatta da un potenziale investitore. Vorrei anche sapere che cosa fa Invest Invitalia, perché abbiamo chiesto anche ad Invitalia qualche informazione e ho ricevuto una cortesissima risposta anonima di una persona che ha detto, guardi, l'ho qui davanti, le informazioni riportate nella sua email presentano un progetto che sembrerebbe inquadrarsi in un'operazione di natura meramente mediativa e o commerciale che purtroppo non rientra in quelle supportate dall'agenzia. Allora io penso che così, se un'attività commerciale non rientra nelle attività di Invitalia, non so bene a cosa serve questo istituto. Cioè. Allora, Stefano Firpo, le ho fatto sentire l'intervista che abbiamo realizzato a Guido Pompili. Purtroppo non abbiamo molto tempo, però io credo che lei in 5-6 minuti può dare delle risposte a questo imprenditore che vuole portarci qua 47 milioni di dollari. Non è che ci facciano proprio schifo, eh? Che dice? No, tutt'altro. Dunque, faccio solo due precisazioni. Sì. In primo luogo, il programma Destinazione Italia è un programma di policy che è stato adottato dal Consiglio dei Ministri, ovvero è un programma che cerca di costruire una politica per migliorare l'attrattività del nostro paese. Per ora è solo, come dire, quello che viene tipicamente chiamato un libro bianco, deve essere ovviamente tradotto poi in legge, in norma, e su questo stiamo lavorando. Abbiamo però voluto lavorare con un metodo nuovo, prima creando il consenso sulle policy, e il Consiglio dei Ministri ha adottato tali policy. È in corso attualmente una consultazione pubblica su questo programma al sito www.destinazioneitalia.gov.it per raccogliere ulteriori spunti, ulteriori idee e commentare le misure che sono state proposte da questa task force di tecnici di cui io faccio parte per incrementare e migliorare l'attrattività del nostro paese. Quindi è un programma che in questo momento sta camminando. Esatto, si sta implementando. Senta, che impressione le fa però sapere che non appena Letta si è presentato alla comunità economica appunto americana c'era già qualcuno pronto ad investire nel nostro paese, che in questo momento è un po' bloccato perché chiaramente tutto il progetto non è pronto. Che sensazione prova? Ma guardi, io penso che c'è un interesse enorme nel nostro paese. C'è un interesse di chi vuole investire e portare dei capitali, dell'equity in questo paese, c'è dell'interesse di chi vuole portare capitali finanziari in questo paese, c'è dell'interesse anche per venire a lavorare in questo paese e per fare dell'Italia un attrattore anche di talenti internazionali. Il problema è che l'Italia è da troppo tempo e che è fuori dai radar del mondo e bisogna reinserirla e sforzarci tutti quanti di reinserire il nostro paese nei radar del mondo, perché nel momento in cui noi riusciamo e creiamo gli strumenti per reinserirlo al meglio nei radar del mondo, l'interesse del mondo per l'Italia è sicuro, è certo. Quindi dobbiamo solo conquistarcelo. Per rispondere al nostro imprenditore che ci ha interpellato, visto che Destinazione Italia si compone di 50 misure che incidono, come dice il vostro sito, su tutto il ciclo di vita dell'investimento e sulla capacità dell'Italia di promuovere la sua immagine all'estero, nel settore immobiliare che tipo di impegni ci sono? Allora, nel settore immobiliare c'è un interesse enorme dall'estero. L'Italia ha ancora alcune leggi che sono un po' anacronistiche, le faccio alcuni esempi, ha una legge sulle locazioni immobiliari, sulle grandi locazioni immobiliari che risale agli anni 70, è una legge ormai completamente astorica rispetto alle leggi che caratterizzano altri contesti economici come quello francese o quello tedesco e che oggi impedisce per tutta una serie di vincoli, di rigidità, di attrarre capitali. C'è una legge in secondo luogo che impedisce ad esempio quello a cui faceva riferimento l'imprenditore su tutto il fronte delle autorizzazioni, ad esempio dei cambi di destinazione d'uso, che molto spesso quando uno vuole riconvertire questi immobili o a uso commerciale o a uso alberghiero rendono molto, molto difficoltoso il farlo, bisogna intervenire, c'è una proposta per intervenire anche in questo senso. E terzo, ancora un'ultima misura, l'Italia è rimasta molto indietro su quelli che vengono chiamati i fondi immobiliari quotati. In Francia ci sono circa 50 fondi immobiliari quotati che fanno massa critica, che mettono l'immobiliare francese appunto nei radar del mondo. L'Italia purtroppo ha una legge vecchia, una legge inadatta, e che ha finora permesso di creare appena 2 fondi immobiliari quotati. C'è una misura che spinge molto l'utilizzo di questo strumento per attrarre capitali dall'estero. Non abbiamo più tempo, purtroppo, però un'ultima domanda gliela faccio, dottor Firpo, piuttosto che rispondere ad un imprenditore che ci dà questi soldi, come dire, proprio per dirla in termini molto rudi, piuttosto che rispondergli scriva ad info e poi le risponderemo, non si potrebbero prendere invece i nominativi appunto di queste persone e mantenerle lì un po' calde in attesa che il progetto si sblocchi e che parta appunto, ma questa lista di nomi in modo tale da dare loro tutta la dovuta attenzione nel momento in cui appunto Destinazione Italia partirà e sarà formalizzato definitivamente? Beh, certamente bisogna ricostruire la governance di questo processo, questo è un impegno che c'è preso dal Presidente Letta, e bisogna ricostituirlo. Finora abbiamo diversi soggetti che si occupano dell'accompagnamento degli investitori in questo processo, questi soggetti, finora la sinergia tra questi soggetti non ha ben funzionato. Bisogna perfezionarla. Infatti, grazie a Stefano Firpo, capo della segreteria tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico. La prego, si mette in contatto con Guido Pompili. Non ci facciamo sfuggire questo importante investimento che potrebbe, tra l'altro, in questo momento in cui Roma è così ricca di turisti per il Papa, quindi approfittiamo naturalmente quanto più possiamo. È tutto, a domani, buona giornata. Radio 24, la passione si sente.